sospeso tra le nuvole, un sogno si dissolve, l'azzurro abbraccia l'infinito, un canto di libertà. Le stelle danzano in silenzio, custodi di segreti, mentre il vento sussurra storie di antiche origini. Tempeste si avvicinano, un'armonia di tuoni, l'eco di un passato che risuona tra le correnti, un sole che si nasconde dipingendo l'orizzonte, la luce si frantuma, riflessi di un'anima errante. Tra i mondi, mentre il cielo si tinge di sogni e di speranze. Silenzio profondo, un respiro si fa eco, la vastità ci avvolge, un abbraccio senza fine, le stelle ci guidano in questo mare di blu, un canto di libertà. Nel cielo che ci unisce.